E primo brano di questa sera ad aprire la suite stonata, che tra un po' diventerà aristonata, quindi la linea da Reggio Calabria ritornerà a Milano a Matteo. Però prima di appunto ritornare a Milano e quindi di dare là a Sanremo, andiamo a collegarci con il Sudafrica. Ne avete visto sul nostro pagina Facebook di Radio Stonata, sulla pagina della Suite Stonata, sulla pagina di nonsoloturisti.it. Io sono elettrizzato perché è fantastico tutto ciò. Però prima di tutto diamo il benvenuto a Flavio Laggia di nonsoloturisti.it. Ciao Flavio e ben ritrovato. Ciao Beppe, buonasera a tutti. Sì, però Flavio non è solo questa sera, perché con te c'è un musicista, un artista, io direi il classico artista, non classico nel senso di classico, però un artista a 360 gradi. Infatti Beppe, mi spiace che voi vi dobbiate sorbire Sanremo, ma io sono qua con Nathan Radnick, un ragazzo straordinario che ho conosciuto grazie alla eccezionale ospitalità dei miei amici di Cape Town. Nathan è un musicista, è disegnatore, è un artista, ma soprattutto è un compositore del chitarrista della band Ice Cream and Chocolate Sticks, che grazie a lui ho scoperto, mi ha aperto un mondo sulla grande abilità di combinare, di comporre, di mescolare generi e culture che hanno i ragazzi, gli artisti sudafricani. Hi Nathan, want to say hello to our audience? Good day, hello everybody. Eccoci qua, perfetto. Ma io vorrei subito fare una domanda, te la faccio in italiano e se tu sei così gentile a tradurla in inglese al nostro Nathan, com'è avvenuto il suo avvicinamento alla musica? Beth asks Nathan, how did you come to become a musician? I remember you told me your parents were artists as well. You want to explain us a little bit how this went? My dad gave me a guitar at 11. I really liked music because the cool kids like music at school. And then I picked up the guitar, and when I was alone in my bedroom, we just found the connection. And that was history, yeah? Nathan mi spiegava l'altro giorno, dice anche adesso i suoi genitori erano artisti, anche lui, il primo a regalargli uno strumento musicale fu suo padre, che gli ha dato una chitarra. Mm-hmm. E dopo un po' nella sua cameretta, mentre cominciava a studiare questo strumento, you told me Nathan, first you were into hip-hop and then Johannesburg, the closeness. First it was hip-hop, and that's why when he gave me my guitar at 11, I put it away in the cupboard for 2 years, and then I started listening to Nirvana, and then from Nirvana to System of a Down, and I loved just moving my fingers and having heavy rock. And now I've done another full 6. Now I like it all. Nathan ha detto che prima ancora ha detto che tutti i ragazzi, all the cool kids, tutti i ragazzi in gamba ascoltano la musica, anche lui ascoltava la musica. A 11 anni, quando gli hanno regalato la chitarra, lui era nell'hip hop, nella scena hip hop, e l'ha lasciata in uno sgabuzzino per anni. Poi a Johannesburg, una città un po' così opprimente per certi versi, si è trovata a cercare un amico, e il suo amico è diventato la sua chitarra. Ha cominciato ad ascoltare Nirvana, poi System of a Down, ha cominciato a scrimpellare, a suonare, ed è diventato il musicista che adesso tutti quanti più o meno conoscono in Sudafrica. Nathan e la sua band infatti non è uno qualunque, loro hanno suonato, pensa Beppe, per i mondiali del Sudafrica nel 2010. La canzone è divenuta popolarissima, My Cape Town. How did this go? When you played My Cape Town in front of this huge audience, what part of your career were you worth then? How did you feel like? It was crazy. 46,000 people, absolute madness. Wasn't my first time being on stage, but it was our second time as this band ever being on stage together. So we were nervous, but I think we pulled it off. Pensa Beppe, quando gli hanno chiesto di suonare My Cape Town davanti a 46.000 persone, era la seconda volta che si esibivano come band in pubblico. Erano giovani, erano pieni di entusiasmo, molto nervosi, ma se la sono cavata benissimo. Tanto che nel frattempo hanno pubblicato il loro primo album, The Paradox, che nel 2013 ha vinto i South African Music Awards. Let me hear it again. Adesso glielo faccio raccontare a lui. When you won the South African Music Awards in 2013, you didn't expect. You were there in the among the audience, among the public, and what happened? They announced our name, and we literally sat there for about 20 to 30 seconds, just not believing that it happened. And then we all walked to the stage in a different way, and I couldn't find the stairs, so I climbed up the stairs, and I had this big cast on my foot because I'd broken my leg, so it wasn't easy. And yeah, I mean, that's one way of doing it, I suppose. Beh, allora, beh, però erano giovani, no? Erano le prime esperienze con la band, erano nel pubblico di questa importante avvenimento di South African Music Awards, e alla fine chiamano il loro nome per dirgli che hanno vinto. Loro per 30 secondi si guardano increduli l'un l'altro, non dicono niente, nessuno si alza, poi in qualche modo un po' confuso e scatenato si alzano dalle loro sedie e vanno verso il palco per strade diverse. Lui aveva la gamba rotta, all'epoca non trovava la scala, si è arrampicato col cesso alla gamba sul palco, sono saliti sopra e si sono cominciato a saltare, si sono divertiti, e insomma sono diventati la band che tutti conoscono. Adesso nel frattempo i ragazzi sono cresciuti, hanno continuato a scrivere, Nathan mescola in maniera incredibile rock, hip hop, giocano con l'elettronica e soprattutto sono anche una cosa molto importante per un paese con una storia come il Sudafrica. Sono una band multietnica, c'è un ragazzo di colore, c'è un ragazzo africano, c'è Nathan che dice non so cosa sono quando parliamo insieme. E io mi domandavo, no, se la musica in questi casi, c'è un certo tipo di musica, divide le persone perché ognuno ascolta la sua o le unisce. The music in South Africa, playing in South Africa, does it divide the people because everybody has his own reference, or does it combine the people, does it bring it together? I think in the beginning when I was growing up there was a divide, but I think music itself, I even hear it all over the world, is starting to blend different genres together, and it's happening here in South Africa. So even one festival will have three different stages with three different types of music, and everybody will go in between to their favorite artists. I think music's becoming one, and it's a blessing. If you listen to our music, you'll see that we don't keep one genre ever. Nathan dice che un tempo forse la musica era divisa e divideva le persone perché ogni gruppo etnico aveva i suoi riferimenti, ma le cose sono cambiate negli ultimi anni e adesso stanno cominciando a mescolarsi le genti, le culture, le persone. Anche nei festival, dice Nathan, ci sono due o tre palchi, ci sono due o tre esibizioni differenti, ognuno la sua preferita, ma la gente comincia a mescolarsi, a vivere e ad apprezzare insieme anche differenti stili. Stili che quasi si contrappongono, si mescolano in continuazione, creando sempre nuove musicalità e nuove esperienze. Ma, Flavio, ma tutto ciò è fantastico. Non lo so, se hai qualche altra domanda da fargli tu, se no io direi dimmi tu. Nathan, sebbene abbia scelto Città del Capo, è nato a Durban, ha vissuto anche a Johannesburg, sono tre città molto chiave del panorama culturale e sociale della Sudafrica, ma anche tre città molto differenti. Vorrei sapere perché poi alla fine ha scelto Città del Capo. Nathan, you were born in Durban, you lived in Johannesburg. Why did you choose to live in Cape Town? This is where I felt the most inspired. You wake up in the morning, the mountain, the beautiful people. Everything about Cape Town just clicked. Yeah. Cape Town, dice, è la città più vitale, più interessante, dove veramente la gente viene a creare, viene ad essere se stessa. Ha detto che qua ha fatto un click, gli ha smosso qualcosa che l'ha convinto poi a restare qui. Per finire, Beppe, prima di salutarmi, vorrei metterlo un po' in difficoltà, una cosa che lui di cui non ama molto parlare, ma io, conoscendo il Sudafrica e la sua storia complessa, vorrei sapere secondo lui il paese, il suo paese, come lo vedrà tra 10 anni. Nathan, I know you don't like to speak about and to get into this kind of discussion, but I'm happy to put you in troubles. Still, I want to hear from you, how do you see South Africa in 10 years? So how do you see this country developing and growing? It's getting better. So 10 years, I see it getting hopefully better, but I think we do need maybe another two generations for it to be spot on. Lui dice che vede il miglioramento, vede il cambiamento positivo, ma hanno bisogno ancora di un paio di generazioni, dice lui, per essere veramente per superare i traumi, le ferite che storicamente come popolo si portano dietro. Flavio, guarda, è stato veramente bellissimo. Ringrazio Nathan per la sua disponibilità. Io direi ci ascoltiamo Goodbye nel salutarci e ci diamo appuntamento a martedì prossimo, Flavio, con te. Grazie mille, Beppe. Buona serata a tutti e a martedì prossimo. Ringrazia. Thank you and good night. Grazie, grazie. Saluti anche da parte di Nathan. Grazie ancora. Ciao, Beppe. Ciao.